La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 10 ottobre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E questa settimana parleremo di un argomento piuttosto spinoso, parleremo fondamentalmente delle lampadine a basso consumo e ne parleremo col professor Ugo Bardi, professore di chimica presso l'Università di Firenze, ma soprattutto direttore della sezione italiana di Aspo Italia. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Ugo, prima di tutto, visto che stiamo parlando di lampadine a basso consumo, cerchiamo di capire che cosa sono. In 100 parole, cerca di spiegare più o meno che cos'è una lampadina a basso consumo e perché è stata adottata. Proviamo a dirlo in 100 parole, tu mi tieni il conto, quando sono arrivato a 99 me lo dici, va bene? Perfetto. Allora, una lampadina a basso consumo è, come dice il nome, una lampada che funziona consumando meno energia delle lampade tradizionali, che come sappiamo sono quelle inventate ormai ben più di 100 anni fa da Edison a filamento di tungsteno. Di lampade a basso consumo ce ne sono sostanzialmente tre tipi sul mercato, ovvero che si possono comprare al supermercato dall'elettricista, ma quella di gran lunga, la più diffusa, praticamente la sola che si trova per uso generalizzato, per attaccare a un lampadario del salotto o in cucina, è la lampada fluorescente, cosiddetta compatta. La lampada fluorescente funziona con una scarica elettrica dentro un gas che contiene un metallo volatile, cioè in fase gassosa, che è il mercurio. Il mercurio ce n'è poco, ma qualche milligrammo, i dati sono dell'ordine da 1,5 a 15 milligrammi a seconda di quanto è grossa la lampada. E queste lampade le conosciamo tutte, sono le classiche lampade al neon, come vengono chiamate nel linguaggio comune, e hanno una resa di illuminazione che può andare dal 70 all'80% migliore di quelle delle lampade a tungsteno, ovvero per la stessa luminosità si consuma il 20%, che indubbiamente è un vantaggio. Poi ci sono altre lampade basate sui diodi, i cosiddetti LED, Light Emitting Diode, che però sono ancora un po' più rare e più specializzate, e poi ci sono le classiche alogene, che sono figlie dirette delle lampade a tungsteno, sono anche quelle basate sul filamento, ma sono a più alta temperatura, quindi sono più efficienti, quindi consumano meno energia, però hanno anche i loro problemi, perché la luce è molto diretta, molto, molto forte, come sappiamo. Perfetto Ugo, le 100 parole sono state esaurite, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e quando torneremo in studio cominceremo davvero a parlare dell'argomento e soprattutto commenteremo un articolo uscito poco tempo fa su nuove tecnologie energetiche. Allora Ugo, siamo ritornati in studio e quindi io cerco di commentare con te un articolo che peraltro hai scritto proprio tu su questo blog, che è un blog nuovo, spin-off di Aspi Italia, che sarebbe quello di nuove tecnologie energetiche. Tu all'inizio cominci dicendo che una volta l'energia costava tanto e quindi ci si faceva più caso, quindi la si consumava molto più difficilmente. Ora che l'energia costa poco, l'energia si consuma molto più facilmente e quindi ci si pone meno il problema. Perché correli questo argomento con le CFL? Bene, io sono partito in questo articolo da un'osservazione, da un romanzo che ha scritto Frank McCourt, un bel romanzo che suggerisco a tutti di leggere, si intitola Le ceneri di Angela, che racconta la vita in Irlanda verso gli anni 30-40, e erano poverissimi, come d'altra parte erano poveri anche i nostri antenati a quel tempo, e il protagonista racconta che quando suo zio, dove lui viveva, usciva la mattina per andare a lavorare, lui staccava i fusibili dell'impianto elettrico di casa per far sì che suo nipote, cioè l'autore, non potesse accendere la luce per leggere. Quindi vedete, c'era una volta un atteggiamento ben diverso, oggi invece l'atteggiamento è di spreco, cosa che sotto certi aspetti è anche ragionevole, perché se voi fate un po' i conti di quanto si spende per l'illuminazione domestica, veramente molto poco. Uno potrebbe anche lasciare la luce accesa senza troppo preoccuparsene, se non lo vogliamo fare per ragioni di evitare lo spreco, ma l'energia elettrica oggi costa talmente poco che effettivamente, se non si interviene in qualche livello per forzare la gente a risparmiare, non c'è veramente una grande necessità di farlo, quindi le cose sono cambiate enormemente. Ugo, tu nell'articolo cerchi di, come dire, smontare un pochino dei luoghi comuni che abbiamo sulle lampadine a basso consumo. Cercami di spiegare da dove sei partito per andare a analizzare un pochino nei dettagli quelle cose che oggi assumiamo come vere quasi per dato di fatto. Ora, la Commissione europea è partita con un'idea tutto sommato lodevole, quella di cercare di forzare in qualche modo i consumatori europei a usare meno luce, meno energia elettrica, risparmiando energia elettrica. Però a mio parere c'è qualche problema in questo fatto, perché in primo luogo sono andati a intaccare su un settore dei consumi che è piccolissimo. Se voi fate un po' di conti, l'illuminazione domestica conta per circa l'1-2% dell'illuminazione, dei costi totali, dei consumi totali di energia elettrica, quindi sono andati a intervenire su un punto che era oggettivamente molto marginale, si doveva intervenire su ben altre cose, anche sul bilancio domestico, quello che si consuma per le lampadine e per l'illuminazione, ben poca cosa rispetto a quello che si consuma rispetto a condizionatori, lavatrici e riscaldamento, non ne parliamo nemmeno. Quindi la Commissione è andata a intervenire pesantemente su un punto estremamente marginale, cosa che è abbastanza tipica dei politici. I politici tendono a lanciare provvedimenti, idee che sono spettacolari, nel senso, cioè abbiamo fatto una cosa, in questo caso hanno fatto una cosa notevole, proibire le lampadine a filamento di tungsteno. Guardate che non ci sono stati casi del genere, proibire una cosa non perché inquina, non perché fa danni, semplicemente perché consuma più energia delle alternative. Allora, che cosa è successo? L'idea è lodevole, ma l'effetto è modesto, se non in termini di prestigio per i politici che l'hanno proposto. L'effetto modesto, peraltro, uno potrebbe dire, va bene, contentiamoci, qui da noi in Toscana si dice meglio che nulla, marito vecchio. Quindi uno direbbe, risparmiamo l'1%, ma è pur sempre qualche cosa, il che va bene, io non ho obiezioni su questo punto. Il problema è che sono andati a forzare a questo punto una tecnologia, secondo me, ha degli inconvenienti. La tecnologia delle lampade fluorescenti compatte è una tecnologia interessante, molto più efficiente di quelle a filamento, però questo problema è di contenere mercurio, e secondo me questo ci si doveva pensare di più prima, perché questo mercurio è poco, sono d'accordissimo che non fa gravissimi danni. Il problema è che sono pur sempre tonnellate di mercurio che vengono messe per l'ambiente, perché in gran parte queste lampade finiranno nei cassonetti, c'è poco da illudersi. Certo, sono classificate come rifiuto speciale, rifiuto elettronico, per legge saremo obbligati e costretti a conferirle agli appositi centri di raccolta, però se lo cercate di farlo oggi non li trovate neanche questi centri di raccolta, e realisticamente, tenendo conto che tutti obbedissero alla legge, non esisterebbe la polizia. Se le leggi fossero sufficienti, non ci sarebbe bisogno di agganciare il lucchetto alla bicicletta quando la parcheggi. Allora, nella pratica, io sono sicuro che una gran parte, probabilmente la maggior parte di queste lampade finirà nei cassonetti, da lì finirà in discarica o finirà nell'inceneritore, che poi nelle ceneri finirà anche in discarica. Quindi questo mercurio sarà perso per sempre nell'ambiente, senza contare poi i danni possibili, probabilmente piccoli, ma anche quelli non da trascurare, che se ti si rompe una di queste lampade in casa, questo mercurio si disperde per la casa. Si spera che non siano grossi danni, perché tutto sommato dovrebbe essere una cosa rara, ma se uno non ci sta attento, e ho l'impressione che molta gente queste cose non lo sappia, che non sospetta nemmeno che queste lampade siano pericolose, perché se ti si rompe in un ambiente chiuso e non ventilato, quel mercurio lì ti fa danno, fa male, non c'è da negare queste cose. Quindi a mio parere è stata una cosa un po' affrettata, fatta per ragioni di scena, che si poteva pensarci un attimino di più e aspettare di avere una tecnologia più evoluta che non avesse mercurio, per esempio, o aspettare che le lampade a LED si diffondessero di più e fossero veramente sul mercato. Quindi in questo momento abbiamo forzato il mercato a rivolgersi verso una tecnologia, a mio parere, ancora molto imperfetta. A un certo punto non nego che le lampade a fluorescenza consumino di meno di quelle a tungsteno. Quando si parla di risparmio, si parla di risparmio energetico, ma bisogna anche pensare a risparmiare le risorse. Risorse, non solo energia. Il mercurio è una risorsa limitata altrettanto del petrolio. E sprecarne queste quantità, che poi andranno disperse in modi che non recupereremo più, vuol dire perderle per sempre. I nostri discendenti non le potranno utilizzare. Ugo, all'inizio dell'articolo tu metti un po' le percentuali dei consumi elettrici domestici e dei consumi energetici domestici. Quindi risulta che i consumi elettrici domestici sono solo il 12% e il 16% sono quelli elettrici dei consumi energetici domestici. Perché hanno deciso di puntare su questa cosa? Come dicevi prima, è uno spot oppure c'è una ragione vera? Sotto molti aspetti, secondo me, è uno spot di far vedere che si fa qualcosa, quindi vai a intervenire dove è possibile senza troppo preoccuparsi di un calcolo quantitativo. A mio parere il risparmio va fatto dove c'è veramente i buchi di risparmio, cioè le case poco isolate dove si accende i condizionatori, per quando in estate si consuma quantità enormi di elettricità che si potrebbero risparmiare molto isolando un pochettino meglio. E allora a questo punto non si parla più dell'1%, ma ben di più. Quindi, ripeto, secondo me è stato un provvedimento affrettato che andava considerato un pochino meglio. Ugo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. A questo punto intervisteremo Amos Bonato, che è un ragazzo che ha sviluppato una campagna contro le CFL, e poi ti chiederò un commento sull'intervista che abbiamo realizzato proprio a lui. We'll be right back. bentornati cari radioascoltatori, siamo all'inizio della seconda parte di questo blocco di Cacciafotone, all'interno del quale stiamo provando a parlare di lampadine a risparmio energetico, le cosiddette CFL, e abbiamo il telefono Amos Bonato, presidente di babylonbus.org. Buongiorno Amos. Buongiorno. Amos, cominciamo a spiegare che cos'è Babylon Bus per chi non conosce questa associazione, soprattutto è un sito, giusto? Allora, Babylon Bus è il sito dell'associazione Babylon Bus, appunto, un'associazione culturale che si occupa principalmente di informazione di ogni genere, dalla politica all'economia, all'ambiente, alla società in generale. Il sito è www.babylonbus.org con la Y dopo la seconda B. Amos, io ti ho chiamato fondamentalmente per una cosa. All'interno di Babylon Bus, o almeno nella prima pagina di Babylon Bus, c'è una inchiesta, una campagna per il salvataggio di Edi. Chi è Edi? Edi è la cara lampadina incandescenza, la normalissima lampadina incandescenza che è stata messa al bando da una norma europea che piano piano metterà al bando tutte le lampadine incandescenza. Senti, questa è una campagna che hai attivato praticamente tu, mi spieghi perché è cominciata questa campagna e che cosa ti ha fatto poi sobbalzare sulla sedia, cioè che cosa ti ha fatto continuare questa inchiesta? Ah, la campagna è nata quasi per caso. L'intento iniziale era quello di scrivere un breve documento per spiegare come utilizzare al meglio questo sistema di illuminazione. E poi, mano a mano che procedevo nella ricerca, per essere più preciso, innanzitutto ho scoperto che le lampadine incandescenti venivano messe al bando. E poi che tutti i benefici che queste CFL dovrebbero portare non erano esattamente come venivano descritti. Per cui, approfondendo ulteriormente, quello che mi ha fatto sobbalzare è stata la presunta riduzione di CO2, perché io adesso ormai dico presunta. In realtà, per come viene prodotta l'energia elettrica e per come viene usata l'illuminazione, non è correlata all'emissione di CO2 in pratica. Me lo spieghi meglio? Molto sinteticamente, ci sono tre grossi tipi di centrali elettriche che fanno in modo che quando noi accendiamo la luce o utilizziamo qualsiasi altra cosa questa funzioni. Ci sono centrali che vengono chiamate di base, cioè che sono accese 24 ore su 24. Stiamo parlando per esempio delle centrali nucleari, delle centrali al petrolio. Sì, a carbone, centrali di grossa stazza comunque, che per vari motivi non possono essere spente quando c'è il picco minimo di richiesta. E poi ci sono altre centrali. Poi ci sono altre centrali che normalmente sono più piccole di taglia, di potenza, che vengono accese fra le 8 di mattina e le 10 di sera, grosso modo, anche se in realtà vengono accese qualche ora prima per essere a regime alle 8 di mattina. Comunque funzionano, diciamo che funzionano al massimo della potenza dalle 8 di mattina alle 10 di sera, grosso modo, per assicurare tutti i restanti carichi, quelli industriali, a ciclo su due turni, commerciali e quant'altro, e anche parecchi consumi nostri, domestici. Le altre centrali, che vengono definite di punta, queste ultime vengono definite di modulazione dall'Enel o dai grossi fornitori o dai grossi produttori. Le altre centrali, che vengono definite di punta o di picco, sono al 99,99% centrali idroelettriche. Amos, come si correla tutto ciò con la presunta non emissione di CO2 grazie alle CFL? Perché appunto la stragrande, non la stragrande, però una buona fetta di consumi dell'illuminazione domestica finisce in una fascia oraria dove c'è sovrapproduzione di energia elettrica. Le centrali non possono essere spente, noi la luce la accendiamo lo stesso, e anche se montiamo la lampada a basso consumo che fa richiedere al sistema meno energia elettrica, in realtà il sistema continua a produrre la stessa quantità di energia elettrica. Quello che tra virgolette risparmiamo, o comunque l'eccedenza di questa produzione, viene usata per pompare acqua dai bacini bassi ai bacini alti delle centrali idroelettriche, che sarebbero quelle che devono fare il servizio di punta il giorno dopo. Quindi Amos, stai cercando di dirmi che l'uniche centrali che in teoria verrebbero spente se non ci fosse una richiesta di energia sarebbero le idroelettriche e tutte le altre rimarrebbero accese? Non proprio, l'eccedenza viene usata per ripompare acqua. Se io risparmio durante il periodo di sovrapproduzione, non faccio altro che aumentare questa eccedenza. Se non risparmio, o se paradossalmente mi impongo di consumare di più durante questo periodo, diminuisce l'eccedenza di sovrapproduzione. Come conseguenza ha appunto il fatto di poter pompare più o meno acqua dai bacini alti ai bacini bassi. Mi permetto di semplificare, quindi effettivamente anche se io metto una lampadina a risparmio energetico in casa, l'energia che mi arriva in casa effettivamente è sempre più o meno la stessa, quindi che io metto una lampadina al tungsteno, quindi vecchio modello, o una lampadina a risparmio energetico, nuovo modello, l'energia che mi arriva in casa più o meno è sempre quella, quindi il mio risparmio energetico è solo un risparmio economico, non una non emissione di CO2. Sì, fondamentalmente sì, cioè l'energia che ti arriva in casa è minore se usi una lampadina a basso consumo, ma la centrale continua a lavorare nello stesso identico modo, perché non può essere abbassato ulteriormente, e la CO2 viene emessa quando bruci qualcosa in una centrale, per quello che riguarda la produzione elettrica. Non tutto il consumo dovuto all'illuminazione avviene in periodi di sovrapproduzione. E quali sono i periodi di sovrapproduzione, Amos? Mediamente variano da giorno a giorno, ma si può dire che tutti i giorni dalle 10 di sera alle 7 di mattina c'è sovrapproduzione di energia elettrica, anche durante tutti i festivi e le domeniche. Amos, quindi se potessi sintetizzare, tu consiglieresti l'utilizzo delle lampade a basso consumo? Io lo consiglierei solo ed esclusivamente nei luoghi dove stanno accese per molto tempo. Si avrebbe comunque un discreto risparmio economico da quel punto di vista, previo il corretto smaltimento comunque, perché sono lampade che contengono parecchie sostanze nocive, dal mercurio alla polvere di fosforo, a altri veleni che sono racchiusi nei componenti elettronici nascosti nella base della lampada. Amos, la tua fondamentalmente è sì un'inchiesta ma anche una campagna di informazione. Come avete voglia di continuarla questa campagna insieme a Babylon Bus? L'idea è quella di provare a fare un nuovo sito dove raccogliere tutte le informazioni inerenti non solo alle lampadine a questo punto, ma ai temi dell'energia e dell'ambiente. Amos, ti devo fare l'ultima domanda, questa è ovviamente un'inchiesta molto particolare, ma qual è stato il piccolo dettaglio che ha fatto dire a te stesso, ecco, su questa indagine devo approfondire di più perché forse ho imbroccato la strada giusta? Quando ho visto che la Philips si era collegata dall'Olanda a leggere il primo capitolo che avevo pubblicato sul sito, pochi giorni dopo la pubblicazione. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la campagna e ti ringrazio per la partecipazione. Continuiamo con Cacciafotone. Grazie ancora, Amos. Grazie a te. Allora Ugo, ci siamo sentiti un pochino un'intervista ad Amos Bonato di babylonbus.org e quindi ti volevo chiedere un commento. Che cosa ne pensi di quello che ha appena detto Amos? Beh, è interessante, nel senso che il signor Amos è andato a sindacare, a cercare di verificare, a scoprire le carte, dice ma è vero che risparmiamo così tanto, perché io quello che avevo detto inizialmente mi ero limitato a dire bene il risparmio sul totale. Dato che le lampadine sono più efficienti, in teoria facciamo un risparmio, dico che è piccolo, però lo facciamo. Però viene il signor Amos e dice, ma siamo sicuri che facciamo un risparmio almeno in termini di CO2, cioè di gas clima alterante emesso? E effettivamente lui va a sindacare questo punto. Ora, io credo che andrebbe verificato con attenzione questo, perché è un punto valido, perché se quello che lui dice sostanzialmente è che quando noi accendiamo queste lampadine, perlomeno in Italia, l'energia elettrica in più che ci vuole per accendere queste lampadine viene fuori principalmente dalle centrali idroelettriche, che è un ragionamento che andrebbe verificato significato, però non è privo di interesse. Questo vuol dire che a quel punto lì, siccome le centrali elettriche non emettono CO2, allora questo risparmio in termini di gas climalteranti viene vanificato. Quindi lui sostanzialmente dice una cosa profondamente giusta, che va a illuminare il problema di quelli che ti fanno poi i conti quando dice risparmiamo tanta CO2, perché fanno il conto che l'alimentazione della lampada in casa sia fatta da una centrale a carbone. Allora, se noi assumiamo che sia una centrale a carbone che alimenta la lampada, allora abbiamo indubbiamente un certo risparmio, però se noi assumiamo che sia energia rinnovabile, allora il risparmio è chiaramente zero. Ora, sulle centrali idroelettriche, ripeto, la cosa andrebbe verificata, perché non sono sicuro così sul colpo di quella fascia oraria quale sia la situazione, però per esempio se uno utilizza un impianto eolico per mandare le sue lampadine, può mandare le lampadine che vuole e non comunque non emette CO2, ovvero gas climalteranti. Ugo, l'ultima domanda che ti volevo fare per concludere un attimo questa intervista un po' strana, che sta andando ad affrontare alcuni argomenti di cui normalmente non si sente parlare, è il cosiddetto paradosso di Jevons, cioè quel paradosso per cui se io ho qualcosa che consuma di meno, automaticamente, psicologicamente, ho l'impulso ad utilizzarla di più. Che cosa ne pensi di questo paradosso associato alle cosiddette CFL, cioè lampadine a risparmio energetico? È il paradosso di Jevons, il cosiddetto paradosso di Jevons, in realtà non è affatto un paradosso, è un fenomeno economico ben noto, del quale però ci si dimentica sempre, perché in effetti quando si parla di queste lampadine a risparmio energetico uno usa un certo tipo di ragionamento sostanzialmente brutale. Dico, vabbè, risparmio e tot, faccio questo conto, mi viene un certo risparmio e presumo che questo risparmio ci sia, ma basta pensare un attimino in più per cercare di domandarsi anche cosa succede. E qui ci sono due punti che hanno a che vedere con questa analisi che aveva fatto Jevons nell'Ottocento, che era un pensatore estremamente raffinato, intelligente, che tutti lodano, ma del quale pochi si ricordano nella pratica. Che succede? Io uso tutte queste lampadine a basso efficienza, alta efficienza, scusate, quindi a basso consumo. Questo vuol dire che una certa quantità di energia elettrica non viene consumata da lampadine, ma ci sono due problemi. Il primo, che col fatto che le lampadine sono ad alta efficienza, la gente comincia a dire, beh, non mi importa di spegnerla, allora se consumo poco la lascio accesa o la prendo più potente, la tengo accesa tutta la notte, che male c'è, tanto è a basso consumo. E questo è il primo problema. Uno, con quello che ha risparmiato a fine mese, a fine anno, sono poche decine di euro, ma qualcosa, e va a finire che ti vai a mangiare la pizza, prendi la macchina, emetti CO2 e a quel punto hai vanificato il risparmio che hai fatto con la lampadina a basso consumo. E queste sono purtroppo cose che nessuno considera, perché noi abbiamo perso un po' la capacità di ragionare per sfumature. Noi ragioniamo a questo punto, diseducati completamente, io credo, della televisione e altre cose, ragioniamo su basi o sì o no, nemico amico, bianco nero, buono cattivo, e non siamo più in grado di pensare in termini un pochino più possibilistici. Anche questo post che io ho scritto sulle lampadine a basso consumo, che io le ho criticate, c'è chi mi ha scritto delle lettere antipatiche dicendo ma tu sei contro il risparmio energetico, sei un nemico dell'ambiente, sei un che evidentemente capisci che semplificare il problema è ridurlo a un sì o no. Ugo, ti ringrazio per la partecipazione, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è come al solito sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, e l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie Ugo.